ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Ayrton aveva il sacro terrore del padre, sia delle sue bestiali manifestazioni di affetto, sia delle sue collere da pazzo, perché in un caso rischiava di essere schiacciato e baciato a morte, nell'altro di essere gettato nel fuoco o sbattuto contro il muro, perciò il poveretto rimaneva buono e tranquillo dovunque decidessi di metterlo. «Ecco, ti ho scoperta alla fine», gridò Hindley, tirandomi indietro per la collottola come un cane. «Per Dio e per il diavolo, avete giurato di uccidere il bambino. Adesso capisco perché non riesco mai a vederlo. Ma con l'aiuto di Satana ti farò ingoiare il coltello da cucina, Nelly. Non è proprio il caso di ridere, perché ho appena ficcato Kenneth a testa in giù nella palude del cavallo nero. E due o uno sono la stessa cosa. Voglio uccidere qualcuno di voi. Non avrò pace finché non l'avrò fatto». «Ma non mi piace il coltello da cucina, signor Hindley», risposi. «È servito per tagliare le aringhe. Preferirei essere fucilata, se non le dispiace». «Preferiresti essere dannata», disse, «e lo sarai. Non c'è legge in Inghilterra che possa impedire a un uomo di mantenere la sua casa rispettabile. E la mia è disgustosa. Apri la bocca». Prese il coltello in mano e spinse la punta fra i miei denti, ma io, per me, non ho mai avuto molto paura delle sue stramberie. Sputai, affermando che aveva un gusto orribile e che non l'avrei ingoiato per nessun motivo. «Ah», disse lasciandomi andare, «vedo che questa schifosa piccola canaglia non è Ayrton. Chiedo scusa, Nell. Se lo fosse, meriterebbe di essere scorticato vivo, perché non mi è corso incontro a salutarmi e sta urlando come se fossi uno spirito maligno. Figlio degenere, vieni qui. Ti insegno io ad approfittare di un padre troppo buono e deluso. Dammi un bacio, Ayrton. Maledizione, dammi un bacio, per Dio. Non intendo allevare un mostro. Com'è vero che sono vivo, romperò il collo a questo marmocchio». Il povero Ayrton strillava e scalciava con tutte le sue forze tra le braccia del padre e raddoppiò l'intensità delle grida quando lui lo portò di sopra e lo sollevò sulla ringhiera. Mi misi a urlare che avrebbe fatto venire una crisi di nervi al bambino e corsi su per liberarlo. Mentre li raggiungevo, Hindley si sporse dalla ringhiera per ascoltare un rumore che veniva dal basso, quasi dimenticando quello che teneva in braccio. «Chi è?» chiese, sentendo qualcuno che si avvicinava in fondo alla scala. Anch'io mi sporsi in avanti, con l'intenzione di far cenno a Heathcliff, il cui passo avevo riconosciuto, di non procedere oltre. E nell'attimo in cui persi d'occhio Ayrton, lui fece uno scatto improvviso, si svincolò dalla presa disattenta che lo teneva e cadde. Non ci fu il tempo di provare un brivido di orrore prima di vedere che il piccolo infelice era salvo. Heathcliff era arrivato lì sotto proprio al momento giusto. Per impulso naturale aveva fermato la sua caduta e, rimettendolo in piedi, alzò gli occhi per scoprire chi fosse il responsabile dell'incidente. Un avaro che abbia dato via il biglietto vincente della lotteria per 5 scellini e scopre il giorno dopo che nell'affare ha perso 5.000 sterline, non sarebbe rimasto più trafitto di Heathcliff nel vedere lassù la figura di Hindley. La sua faccia esprimeva molto più chiaramente di quanto potessero farlo le parole l'intensa angoscia di essere stato lui stesso lo strumento che aveva ostacolato la sua vendetta. Credo proprio che se fosse stato buio avrebbe cercato di rimediare al suo errore fracassando il cranio di Ayrton sui gradini, ma noi eravamo stati testimoni del salvataggio e io ormai ero già da basso con il mio prezioso fagotto stretto al cuore. Hindley scese con più calma, rinsavito e in imbarazzo. «È colpa tua, Ellen», disse. «Avresti dovuto tenermelo lontano. Avresti dovuto portarmelo via. Si è fatto male da qualche parte?» «Male?» gridai con rabbia. «Se non è morto, sarà diventato uno scemo. Oh, mi chiedo come mai sua madre non venga fuori dalla tomba per vedere come lei lo tratta. Peggio di un pagano, trattare in quel modo il sangue del proprio sangue». Lui cercò di toccare il bambino, il quale stava dando sfogo al suo terrore con grandi singhiozzi. Ma non appena suo padre lo toccò con un dito, si mise a urlare più forte di prima e ad agitarsi come se stesse per cadere in convulsioni. «Non lo tocchi», continuai. «La odia. Tutti la odiano, ecco la verità. ha proprio una famiglia felice. Si è ridotto proprio in un bello stato. E mi ridurrò in uno stato ancora migliore, Nelly, rise lo sciagurato ritrovando la sua durezza. Ora sgombra il campo insieme con lui. E tu ascolta, Heathcliff, sparisci anche tu. Non farti trovare né sentire. Non ti ammazzerò per stanotte, a meno che forse non mi venga voglia di dar fuoco alla casa. Vedremo che cosa mi suggerirà la fantasia. Mentre diceva questo, prese una bottiglia di acquavite dalla credenza e ne versò un bicchiere. Peccato che non possa uccidersi col bere, osservò Heathcliff facendo eco sottovoce alle sue bestemmie quando la porta fu chiusa. Sta facendo del suo meglio, ma il suo fisico si rifiuta di obbedirgli. Io me ne andai in cucina e mi sedetti a cullare il mio agnellino perché si addormentasse. Credevo che Heathcliff fosse uscito per andare nel fienile. Più tardi risultò invece che se n'era andato solo dall'altra parte della cassapanca. Si era gettato su un sedile contro il muro, lontano dal fuoco, ed era rimasto lì in silenzio. Stavo cullando Ayrton sulle ginocchia e cantavo una ninna nanna, quando la signorina Cathy, che era stata ad ascoltare tutto quel fracasso dalla sua camera, si affacciò e sussurrò. «Sei sola, Nelly?» «Sì, signorina», risposi. Entrò e si avvicinò al camino. Aspettandomi che dicesse qualcosa, alzai gli occhi. La sua espressione sembrava ansiosa e turbata. Ripresi a cantare. Non avevo certo dimenticato il suo recente comportamento. «Dov'è Heathcliff?» disse interrompendomi. «Al suo lavoro nella stalla», fu la mia risposta. Lui non mi smentì. Forse si era assopito. Seguì un'altra lunga pausa, durante la quale vidi scorrere una o due lacrime dalla guancia di Catherine sulle lastre del pavimento. «Nelly, sei capace di mantenere un segreto?» proseguì, inginocchiandosi al mio fianco e alzando verso di me i suoi occhi irresistibili, con uno di quegli sguardi che non ti permettono di restare di cattivo umore anche quando hai tutte le ragioni di questo mondo per esserlo. «Merita di essere mantenuto?» chiesi, un po' meno imbronciata. «Sì, è una cosa che mi preoccupa e devo confidarla. Voglio sapere che cosa dovrei fare. Edgar Linton oggi mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho dato una risposta. Ora, prima che ti dica se ho accettato o rifiutato, dimmi che cosa avrei dovuto fare». «Ma, signorina Catherine, come posso saperlo?» replicai. «Una cosa è certa, considerando la scena in cui si è esibita in sua presenza oggi pomeriggio, direi proprio che sarebbe saggio rifiutare. Visto che la richiesta è venuta dopo, o è irrimediabilmente stupido, o è un pazzo temerario». «Se parli così, non ti dirò più nulla», replicò lei infastidita, alzandosi in piedi. «Ho accettato, Nelly. Presto? Dimmi se ho fatto male». «Ha accettato. E allora? Che cosa serve discuterne? Ha dato la sua parola e mica può ritirarla. Ma dimmi se dovevo farlo o no, dimmelo!» esclamò con tono irritato, torcendosi le mani e aggrottando le sopracciglia. «Ci sono molte cose da considerare prima di poter rispondere in modo adeguato a questa domanda», dissi sentenziosa. «Innanzitutto, lei ama il signor Edgar?» «E chi potrebbe farne a meno? Certo che lo amo», rispose. Allora la sottoposi al seguente interrogatorio. Per essere una ragazza di 22 anni, non ero del tutto sprovveduta. «Perché lo ama, signorina Cathy? Che sciocchezze! Lo amo e basta! Niente affatto. Deve dirmi perché». «Beh, perché è bello ed è piacevole stare con lui». «Male», fu il mio commento. «E perché è giovane e simpatico». «Male ancora. E perché lui mi ama. Ciò non ha importanza a questo punto. E perché sarà ricco e io sarò felice di essere la donna più importante della zona e sarò orgogliosa di averlo per marito. peggio che mai. E ora mi dica come lo ama. Come amano tutti. Sei sciocca, Nelly. Niente affatto. Risponda. Amo la terra su cui cammina e il cielo sopra la sua testa e tutto ciò che tocca e ogni parola che dice. Amo il suo aspetto e tutto quello che fa. Lo amo tutto intero e completamente. Soddisfatta? E perché? Dai, tu ci stai scherzando sopra. È una vera cattiveria. Non è uno scherzo per me, disse la signorina accigliandosi e voltandosi verso il fuoco. Non sto scherzando affatto, signorina Catherine, replicai. Lei ama il signor Edgar perché è bello, è giovane, è simpatico, è ricco e perché è innamorato di lei. Quest'ultima cosa però non conta nulla. Probabilmente lo amerebbe anche se non lo fosse. E anche se lo fosse, lei non lo amerebbe se lui non possedesse le quattro attrattive precedenti. No, certo che no, mi farebbe solo pena. Forse lo odierei addirittura se fosse brutto e ridicolo. Ma ci sono tanti altri giovanotti belli e ricchi al mondo, perfino più belli, forse, e più ricchi di lui. Che cosa potrebbe impedirle di amarli? Se ce ne sono, non sono dalle mie parti. Non ho incontrato nessun altro come Edgar, ma può sempre incontrarlo. E poi lui non sarà sempre bello e giovane, e potrebbe anche non essere sempre ricco. Lo è adesso, e a me interessa il presente. Vorrei che i tuoi discorsi fossero più sensati. Bene, questo sistema tutto. Se non le interessa che il presente, sposi pure il signor Linton. Non ho bisogno del tuo permesso per questo. Certo che lo sposerò. Però tu non mi hai detto se faccio bene. Benissimo se il criterio per sposarsi è di tenere in considerazione solo il presente. E ora, sentiamo che cosa la rende infelice. Suo fratello sarà contento. La vecchia signora e suo marito non faranno obiezioni, penso. Lei fuggirà da una casa disordinata e poco accogliente per entrare in un'altra ricca e rispettabile. Ama Edgar, Edgar ama lei, sembra tutto liscio come l'olio. Dov'è l'ostacolo? Qui e qui, rispose Catherine, battendosi una mano sulla fronte e l'altra sul petto. O in qualunque altro posto abiti l'anima. Nel mio cuore e nella mia anima sono convinta di far male. Questo è molto strano, non lo capisco, è il mio segreto, ma se prometti di non prendermi in giro te lo spiegherò. Non riesco a dirlo chiaramente, ma posso darti un'idea di quello che provo. Si sedette di nuovo al mio fianco, il suo volto si fece più triste e più grave e le sue mani giunte tremavano. Nelly, non fai mai strani sogni, disse all'improvviso, dopo qualche minuto di riflessione. «Sì, di tanto in tanto», risposi. «Anch'io, nella mia vita, ho fatto sogni che sono rimasti dentro di me per sempre e hanno trasformato il mio modo di pensare. Sono entrati a far parte di me, come il vino quando si mescola nell'acqua, e hanno cambiato il colore dei miei pensieri. E questo è uno. Te lo racconterò, ma stai attenta a non sorridere mentre ne parlo». «Oh no, signorina Catherine», gridai, «questo posto è già così lugubre, non c'è bisogno di evocare spiriti e visioni per turbarci ancora di più. Su, su, sia allegra come sempre! Guardi il piccolo Ayrton! Lui non sta certo facendo brutti sogni, come sorride dolcemente nel sonno. Sì, e come bestemmia dolcemente suo padre nella solitudine. Penso che tu ti ricordi di lui quando era un bambinetto paffuto come questo e quasi altrettanto giovane e innocente. Comunque, Nelly, ti costringerò ad ascoltare. Non è una cosa lunga e non riesco a essere allegra stasera. Non voglio sentire, ripetei in fretta. Allora ero superstiziosa per quanto riguarda i sogni e lo sono ancora adesso. E Catherine aveva un aspetto insolitamente cupo che mi faceva temere qualcosa da cui avrei potuto trarre un presagio e prevedere una paurosa catastrofe. Era contrariata, ma non proseguì. Poco dopo riprese a parlare, apparentemente cambiando argomento. «Se fossi in paradiso, Nelly, sarei tremendamente infelice». «Perché non è degna di andarci?» risposi. «Tutti i peccatori sarebbero infelici in paradiso, ma non è per quello. Una volta ho sognato di esserci. Le ripeto, non voglio ascoltare i suoi sogni, signorina Catherine. Me ne andrò a letto. La interruppi di nuovo. Lei rise e mi trattenne. Ma non è nulla, esclamò. Volevo solo dire che il paradiso non mi sembrava casa mia e mi spezzavo il cuore dal piangere per tornare sulla terra e gli angeli erano così arrabbiati che mi hanno buttata fuori nel mezzo della brughiera a cime tempestose dove mi sono svegliata piangendo dalla gioia. Questo basta a spiegare il mio segreto. Come l'altro sogno, sposare Edgar Linton non fa per me proprio come essere in paradiso. E se quell'uomo crudele là dentro non avesse spinto Heathcliff talmente in basso, non ci avrei neppure pensato. Sarebbe degradante per me ora sposare Heathcliff, perciò non saprà mai quanto lo amo, e non perché sia bello Nelly, ma perché lui è me stessa, più di quanto lo sia io. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali, e quella di Linton è tanto diversa quanto un raggio di luna da un fulmine, o il gelo dal fuoco. Prima che questo discorso terminasse, mi accorsi della presenza di Heathcliff. Notando un lieve movimento, voltai la testa e lo vidi alzarsi dalla cassapanca e uscire senza far rumore. Aveva ascoltato fino al punto in cui Catherine aveva detto che sarebbe stato degradante per lei sposarlo, e poi non era rimasto a sentire oltre. Lo schienale della cassapanca impedì alla mia compagna, che era seduta per terra, di notare la sua presenza e la sua uscita. Ma io sussultai e le dissi di stare zitta. «Perché?» domandò guardandosi intorno nervosamente. «Joseph è qui», risposi cogliendo giusto a proposito il rumore del suo carretto. «E Heathcliff entrerà con lui. Non sono sicura che non fosse già sulla porta un momento fa». «Oh, non può avermi sentita dalla porta», disse lei. «Dammi Ayrton, mentre tu prepari la cena, e quando è pronto, invitami a cenare con voi. Voglio ingannare la mia inquieta coscienza e convincermi che Heathcliff non sappia niente di tutto questo. È così, non è vero? Lui non sa che cosa significa essere innamorato. Non vedo perché non debba saperlo come lo sa lei», ribattei. «E se lei è la sua prescelta, lui sarà la creatura più infelice che sia mai nata. Non appena lei diventerà la signora Linton, lui perderà la sua sola amica, il suo amore e tutto quanto. Ha considerato quanto le costerà questa separazione e quanto costerà a lui essere completamente solo al mondo. Perché, signorina Catherine, lui completamente solo al mondo. Noi due separati!» esclamò con tono indignato. «Finché io vivrò, Ellen, nessuna creatura mortale potrà separarci. Tutti i Linton della faccia della terra possono dissolversi nel nulla prima che io accetti di abbandonare Heathcliff. Oh, io non sarei mai la signora Linton se mi fosse richiesto un tale prezzo. Lui per me sarà quello che è stato per tutta la vita. Edgar dovrà mettere da parte la sua antipatia e imparare perlomeno a tollerarlo. Lo farà, non appena saprà quali sono i miei veri sentimenti per lui. Nelly, ora capisco che tu mi consideri una perfida egoista, ma non hai mai pensato che se Heathcliff e io ci sposassimo saremmo due straccioni. Invece, se sposo Linton, posso aiutare Heathcliff a elevarsi e sottrarlo al potere di mio fratello. Con il denaro di suo marito, signorina Catherine, chiesi, non lo troverà così malleabile come ritiene. E benché io non sia miglior giudice, penso che fra tutti i motivi che mi ha dichiarato finora per diventare la moglie del giovane Linton, questo è il peggiore. Non è vero, ribatté. Il mio amore per Linton è come il fogliame nei boschi. Il tempo lo cambierà, lo so bene, come l'inverno cambia gli alberi. Il mio amore per Heathcliff somiglia alle rocce eterne sottoterra. Ne viene poco piacere visibile, ma è necessario, Nelly. Io sono Heathcliff. Lui è sempre, sempre nei miei pensieri. Non è un piacere, come io non sono sempre un piacere per me stessa, ma è il mio stesso essere. Perciò non parlarmi più di separazione, non è possibile. E si fermò e nascose il viso nelle pieghe della mia gonna, ma io gliela strappai via a forza. La sua follia aveva esaurito la mia pazienza. «Se posso dare un senso alle sue parole senza senso, signorina», le dissi, «servono solo a convincermi che lei non sa nulla dei doveri che si assume con il matrimonio. Oppure è una ragazza cattiva e senza principi. Non mi secchi più con i suoi segreti. Non prometto di mantenerli. Questo lo manterrai? Mi chiese con ansia. No, non lo prometto. Stava per insistere, ma io le sussurrai che ero sicura che lui avesse sentito buona parte di quanto aveva detto e raccontai di averlo visto lasciare la cucina proprio mentre lei si lamentava del comportamento di suo fratello verso di lui. Lei scattò in piedi allarmata. «Voglio parlargli, devo parlargli prima di andare di sopra», disse. «Vorrei sapere dov'è, ma dove può essere? Che cosa ho detto, Nelly? Non ricordo. Si è arrabbiato perché sono stata sgarbata questo pomeriggio. Oddio, dimmi che cosa ho detto per farlo stare male. Vorrei tanto che arrivasse. Lo vorrei tanto». «Quanto rumore per nulla», esclamai, pur provando anch'io un certo disagio. «Basta una sciocchezza a spaventarla. Non è certo il caso di allarmarsi tanto, perché Heathcliff se n'è andata a passeggiare al chiaro di luna nella brughiera, o magari se ne sta lassù in cima al fienile, troppo imbronciato per rivolgerci la parola. Sono convinta che è nascosto lassù. Vediamo se lo scovo». «Quel ragazzo diventa sempre peggio», osservò Joseph rientrando. «Ha lasciato il cancello spalancato e il cavallo della signorina ha calpestato due file di grano e se n'è andato giù nel prato. Comunque, il padrone farà il diavolo a quattro domani e farà bene. Lui ha la pazienza in persona con tutti questi sbadati, buoni a niente, la pazienza in persona. Ma non sarà sempre così, starete a vedere tutti quanti. Non è il caso di fargli perdere le staffe per niente. Hai trovato Heathcliff, stupido?» lo interruppe Catherine. «L'hai cercato come ti ho ordinato?» «Avrei dovuto piuttosto cercare il cavallo», replicò lui. «Sarebbe stato più sensato. Ma non posso andare a cercare né cavalli né uomini in una notte nera come la cappa di un camino. E Heathcliff non è il tipo da rispondere al mio fischio. Forse sarebbe meno duro d'orecchio con lei». Era davvero una notte scura per essere estate. Le nuvole promettevano un temporale e io dissi che avremmo fatto meglio a sederci tutti quanti. La pioggia che stava arrivando lo avrebbe sicuramente riportato a casa, senza farci penare oltre. Catherine, però, non si lasciò convincere a stare tranquilla. Continuò ad andare avanti e indietro, dal cancello alla porta, in un tale stato di agitazione che non riusciva a fermarsi. Alla fine si appostò definitivamente a un lato del muro, vicino alla strada, e là rimase, senza dare retta alle mie proteste, al brontolio del tuono e alle grosse gocce che cominciavano a cadere intorno a lei. A intervalli lanciava un richiamo, poi rimaneva in ascolto. Infine scoppiò in un pianto disperato. In quanto a crisi di pianto intense, poteva battere Ayrton o qualunque altro bambino. Verso mezzanotte, mentre eravamo ancora alzati, il temporale si abbatté rumoreggiando in piena furia su cime tempestose. C'era un vento impetuoso e fulmini, e l'uno e gli altri spezzarono un albero all'angolo della casa. Un grosso ramo cadde sul tetto e demolì una parte del comignolo a est, mandando giù pietre e fuligine nel fuoco di cucina. Il tumulto cessò dopo una ventina di minuti, lasciandoci tutti incolumi, tranne Cathy, che era bagnata fradicia a causa del suo ostinato rifiuto a mettersi al riparo, perché era rimasta senza cappello e senza scialle a prendersi tutta l'acqua possibile sui capelli e sui vestiti. Entrò e si stese sulla cassapanca, tutta inzuppata com'era, voltandosi verso lo schienale e coprendosi la faccia. «Insomma, signorina», esclamai toccandola sulla spalla, «non vorrà lasciarsi morire, vero? Lo sa che ore sono? 00:30. Venga. Venga a dormire». Così, dopo aver inutilmente pregato quella ragazza testarda di alzarsi e togliersi gli abiti bagnati, me ne andai a letto con il piccolo Ayrton, che dormiva profondamente, come se tutti attorno a lui fossero stati immersi nel sonno.